dichiarazione di Salvini rimanda molto a quanto accaduto alcuni anni fa, tra il 2008 e il 2011, quando il ministro dell'interno era Maroni. E lì ci fu un censimento, che poi in realtà fu una vera e propria schedatura su base etnica, che è qualcosa che non può essere fatta, e ci furono una serie di azioni gravemente lesive dei diritti umani nei confronti delle comunità rom. Ecco, quindi questo richiamo ha fatto sì che di fatto le parole di Salvini sono fortemente preoccupanti per noi, per lo scenario che potrebbe aprirsi a seguito di esso. Tra l'altro, voi come associazione pubblicate anche un rapporto annuale dedicato alla situazione dei rom che vivono nei campi formali e informali. Diciamo che Salvini poi ha risposto e ha chiarito dicendo che lui intendeva un monitoraggio e non un censimento, ma anche da quel punto di vista noi ogni anno, l'8 aprile, giornata internazionale dei diritti dei rom, presentiamo in Senato un rapporto dettagliato che monitora la condizione delle comunità rom in emergenza abitativa, e da qui si evince come in realtà qualsiasi allarmismo è ingiustificato. I rom in emergenza abitativa, ovvero quelli che vivono nei cosiddetti campi nomadi, sono pochi, lo 0,04% della popolazione italiana, ovvero 26.000 persone, di cui la metà sono bambini. Basterebbero delle politiche finalmente inclusive, così come prevede la strategia nazionale di inclusione dei rom, per procedere a un graduale e progressivo superamento dei campi. Sembra invece prevalere, e questo anche dal programma di governo, di questo governo, un approccio fortemente sicuritario e quindi un preoccupante ritorno al passato. A proposito di ritorni al passato, in molti hanno equiparato le dichiarazioni di Salvini anche alle leggi razziali del periodo fascista. Visto che in realtà il nuovo governo si sta dimostrando molto intransigente su tutta una serie di questioni sociali, voi pensate che sia importante combattere tutto questo tipo di dichiarazioni, diciamo tutte insieme, unite anche per esempio rispetto all'odio nei confronti dei migranti? Sì, oggi in Italia più che mai è fondamentale da questo punto di vista creare un fronte della società civile, la società democratica che ancora crede in questi valori e che deve unirsi. Oggi è toccato ai rom, ieri toccava ai migranti dell'Aquarius, domani toccherà qualcun altro. Schiacciare i diritti umani di una categoria significa schiacciarli per tutti, e quindi è fondamentale fare fronte comune, solidarizzare gli uni gli altri e soprattutto creare un muro di fronte a questo fenomeno di xenofobia imperante che oggi sembra prevalere. Ciò che preoccupa di più non sono tanto le dichiarazioni di Salvini quanto l'opinione pubblica, che sembra aderire a questi richiami, sembra sentire in questi richiami di pancia una risposta ai suoi problemi, e questo è quello che preoccupa, proprio per le gocce di veleno che Salvini giorno per giorno immette all'interno della nostra società. Parlando invece di politiche concrete, quali sono delle risposte che il governo dovrebbe dare, che magari voi avete anche chiesto negli anni, alle esigenze delle comunità rom, non solo in realtà, anche sul tema dell'emergenza abitativa? Beh, noi abbiamo presentato diversi studi nel passato a diverse amministrazioni sul cosiddetto superamento dei campi. Il superamento dei campi non è un qualcosa di opzionale, ma c'è una strategia nazionale con il quale l'Italia si è impegnata di fronte all'Europa a superare i campi entro il 2020. Ci sono esempi virtuosi, purtroppo ancora molto pochi. Pensiamo a Messina, pensiamo a Cagliari, pensiamo a Alghero, città che hanno smesso di investire nella creazione di campi, luoghi di segregazione e di marginalità, in progetti di inclusione, progetti cioè di fuoriuscita dai campi attraverso un sostegno all'attività lavorativa e abitativa. Queste esperienze dimostrano che è possibile farlo. Manca purtroppo una risposta in altre città. Pensiamo a Torino, pensiamo alla stessa capitale, la stessa città di Roma, dove invece le politiche ancora si fondano su un forte approccio sicuritario, e laddove si tentano progetti di fuoriuscita sono fallimentari perché manca un dialogo attento, reale con le comunità. Un'ultima domanda sul tema più internazionale, diciamo. Stamattina è arrivata anche la risposta del commissario dell'Unione Europea Moscovici, che ha criticato le dichiarazioni di Salvini. In generale, a livello europeo basta il tipo di attenzione che c'è? Può bastare, insomma, l'attenzione dell'Unione Europea nei confronti del governo Salvini? Noi abbiamo lanciato un allarme ancora prima di queste dichiarazioni, quando è stato reso pubblico il programma di governo. Già in quella sede abbiamo scritto a diversi organi istituzionali europei per lanciare un allarme, per chiedere di monitorare attentamente quanto stava accadendo in Italia, perché una deriva xenofoba e razzista si stava prefigurando. Ci attendiamo da questo punto di vista che l'Europa sia attenta, sappia far valere quelli che sono i principi democratici e civili su cui è costruito il vecchio continente. Ci auguriamo che questo possa avvenire. Da questo punto di vista l'Europa potrebbe rappresentare un ombrello sotto cui ripararci.